pronti? Dottore. Partito. Ciak. Azione. Se piaccio alle donne non è per le virtù che ho, ma per i vizi che non ho. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi il secondo tempo di Alta Fedeltà di Stephen Frears. Dopo aver scoperto per caso di essere stato mollato per un altro, Rob decide di tentare il tutto per tutto per riconquistare la sua ex. Per riuscirci, dovrà incontrare una dopo l'altra le donne che gli hanno spezzato il cuore e non cedere al fascino tentatore di tutte le altre, inclusa la bella e promettente cantante Marie de Salles. Audiogrammi in radio come al cinema. Dick, Barry e Rob presero un taxi per andare al White Lion a vedere Marie. E i loro nomi erano davvero scritti sulla lista degli invitati. La corsa in taxi era costata le previste 15 sterline. Ma poi c'era stata anche la mancia e la birra, che lì era 2 sterline alla pinta. Le buone notizie furono che A. Rob non pianse durante Baby I Love Your Way, anche se si intristì un pochino. B. Vennero menzionati durante il concerto e la gente si girò a guardarli e loro si guardavano l'un l'altro timidamente e a Barry per l'eccitazione venne un attacco di ridarella. C. Rob continuava a desiderare di finire da qualche parte sulla copertina di un album di Marie. La cattiva notizia. Marie chiamò un tizio a cantare il bis con lei, un figo che divise il microfono con lei con una intimità che a Rob non piacque. Quando finì il concerto, Rob raccattò la giacca dal pavimento, se la infilò alla svelta e prese un taxi nero. Era così sbagliato se voleva tornarsene a casa in mezzo alla sua collezione di dischi? Appena arrivò a casa si preparò una tazza di tè, infilò lo spinotto delle cuffie e si ascoltò tutte le canzoni di Bob Dylan e Elvis Costello che aveva. Poi si attaccò all'album live di Neil Young e ci rimase appiccicato finché ebbe la testa piena di segnali di ritorno. Dopo Neil Young andò a letto e si mise a guardare il soffitto. Ho fatto il disc jockey per un paio d'anni. Ero anche discreto. E non sono mai stato tanto felice come allora. Anche perché conobbi Laura. Ciao! Ciao! Un disco con le contropalle! Cosa? Un disco con le contropalle! Già, lo so! Laura sosteneva di essere andata al locale 3 o 4 volte prima che Rob la notasse. Così la terza o quarta volta si avvicinò alla sua postazione, gli rivolse la parola e gli piacque immediatamente. Gli chiese di sentire una canzone che Rob amava moltissimo, Go to Get You Off My Mind di Solomon Burke. Così Rob mise sul disco di Solomon Burke e, come era immaginabile, tutti gli amici di Laura invasero la pista. Ma ad uno finirono con l'andarsene tutti, scuotendo la testa e ridendo. Era una canzone troppo difficile da ballare. Solo Laura tenne duro e continuò. Rob non aveva mai avuto una cotta selvaggia per Laura e questo all'inizio gli dava da pensare circa le possibilità di un futuro a lungo termine. Aveva sempre pensato che ogni rapporto aveva bisogno di quella specie di spintone tremendo che la cotta rappresenta. Era essenziale per dare l'abbrivio e superare le prime salite. Poi, quando l'energia di quel primo spintone si esauriva e cominciavi a rallentare e quasi a fermarti, allora occorreva guardarsi attorno e vedere cosa si era ottenuto. Si misero insieme quasi con noncuranza, e poiché non c'era nessuna energia speciale da consumare, non dovettero mai darsi quell'occhiata intorno per vedere cosa avessero ottenuto, perché si trattava proprio di quello che avevano sempre avuto. Allora, come mai ora sono un idiota? Ho idea che Liz abbia parlato con Laura. Che Liz abbia preso le mie difese e che Laura le abbia raccontato alcune cosette. Non so con esattezza cosa le abbia detto, ma deve averle rivelato almeno due o probabilmente tutte e quattro le seguenti scottanti informazioni. La prima, che sono andato a letto con un'altra mentre lei, Laura, era incinta. La seconda, che la mia tresca è la causa diretta. È la causa più o meno diretta dell'interruzione della gravidanza. No. La terza, che subito dopo l'aborto mi sono fatto prestare da lei parecchi soldi. La quarta, poco tempo prima che lei mi lasciasse, una sera le ho detto che il nostro rapporto non mi soddisfaceva e che forse io avevo già iniziato a guardarmi intorno. Sono stato un vero stronzo. La storia dei soldi era facile da spiegare. Lei li aveva, lui no, ed era stata lei a volerglieli dare. Non gli aveva mai restituito il prestito, perché non era mai stato in condizioni di farlo. E il fatto che lei se ne fosse andata per mettersi con qualcun altro non lo rendeva mica più ricco. Circa il fatto che lui le avesse detto di non essere soddisfatto del loro rapporto e che aveva una mezza idea di trovarsi qualcun'altra, lei gli aveva detto: non preoccuparti, è naturale. Così lui aveva ammesso che effettivamente certe volte fantasticava di incontrare un'altra donna. Sul momento pensò che fosse una conversazione del genere: facciamo le persone mature davanti all'imperfettibilità della vita. Insomma, credeva fosse un ragionamento in astratto, da adulti. Adesso capiva che in realtà stavano parlando di lei e Ian, e che con l'inganno Laura lo aveva indotto ad assolverla. Uno sporco trucco da azzeccagarbugli, e Rob c'era cascato, perché lei era molto più sveglia. Rob non sapeva che fosse incinta, chiaro che non lo sapeva. Lei non gliel'aveva detto perché sapeva che lui aveva cominciato a vedersi con una. Lo seppe solo dopo secoli. Stavano attraversando un buon periodo e lui aveva scherzato alludendo alla possibilità di fare dei marmocchi e lei era scoppiata a piangere. Lui l'aveva convinta a dirgli perché piangeva e aveva avuto un breve e sconsiderato accesso di rumorosa ipocrisia prima che lo scetticismo sprezzante di lei gli tappasse la bocca. Non aveva fatto una piega. In realtà, fosse stato lui in quel periodo incinto di se stesso, avrebbe abortito ed esattamente per le stesse ragioni. Che cosa non va in me? Che cosa? Qual è la pecca? Perché sono condannato ad essere lasciato? Destinato all'abbandono? Urgono risposte. Più tardi, quella stessa sera, dopo che aveva ripensato a tutta la faccenda alla luce delle nuove informazioni, le aveva domandato come mai aveva tenuto duro e non lo aveva lasciato. Laura ci aveva pensato su un bel po' e aveva risposto che era perché non aveva mai tenuto duro in niente prima. E quando loro due avevano cominciato a stare insieme, si era fatta una promessa: che quella volta, quando fosse arrivato un brutto periodo, avrebbe provato a tener duro, tanto per vedere cosa succedeva. Così Laura aveva cercato di resistere. E lui perché aveva tenuto duro? Non per ragioni nobili e mature come quelle. Aveva tenuto duro proprio perché all'improvviso, proprio alla fine della storiella poco seria, si era scoperto di nuovo veramente attratto da Laura. Era come se avesse avuto bisogno di un'altra per esaltare il suo sapore. Sapete qual è la cosa peggiore nell'essere mollati? La mancanza di controllo. Se solo potessimo controllare il come e il quando veniamo scaricati, non sarebbe così brutto. Ma allora, chiaro, non si tratterebbe più di un rifiuto, dico bene? Sarebbe come una separazione consensuale, no? Quel pomeriggio, appena Rob vide Laura fuori dal negozio, capì assolutamente, senza nessun dubbio, che la desiderava ancora. Ma questo, probabilmente, dipendeva dal fatto che era lei a rifiutarlo. Ciao. Che cosa vuoi? Ti porto a casa, ti accompagno. E vieni su con me? Sì. Beh, Salgo un secondo a casa tua per prendere un po' di cose. Se avesse potuto indurla ad ammettere che c'era la possibilità di rimettersi insieme, le cose sarebbero sembrate molto più facili. Se avesse potuto andare in giro senza sentirsi ferito, impotente e infelice, sarebbe riuscito a tirare avanti anche senza di lei. In altre parole, soffriva perché lei non lo voleva. Ma se fosse arrivato a convincersi anche un po' che lo voleva ancora, allora sarebbe stato di nuovo bene. A quel punto sarebbe stato lui a non volerla più e avrebbe potuto cercarsi un'altra. Hai visto la casa, Laura? È uno schifo. Quanto guadagni ora? $70,000 l'anno? E abitavi in questo supercesso. Scommetto che non ti ricordi nemmeno che ci stavi a fare. Ci stavo perché volevo vivere con te. La casa in sé non aveva importanza. E ora... ora con chi stai? Tu lo sai con chi sto. Ma l'ho dovuto scoprire da solo, ti rendi conto? Mi dispiace. Non sono stata corretta, lo so. Ed è per questo che sono venuta stasera. Io sono andata via da qui perché non andavamo più d'accordo e non ne parlavamo mai. Sento il bisogno di fare un esame di coscienza, ma vedo invece che tu questo bisogno non ce l'hai. Comunque, ad essere sincera, ho un certo interesse per Ian. La cosa mi è sfuggita di mano e allora mi è sembrato più corretto andarmene. Ma non ho idea di come potrebbe andare questa storia, anzi, credo che... probabilmente non andrà. Cioè? Non sei sicura di volermi lasciare? È così? C'è speranza di tornare insieme? Non lo so. Se non lo sai, c'è una speranza. Rifletti. Marie fu la sua 17ª amante. Tanto per cominciare, non montiamoci la testa. Sì, Marie era una cantante che aveva inciso dei dischi. Ciò detto, resta il fatto che la notte con Marie fu il suo maggior trionfo sessuale. Non mi hai preso in giro con quell'aria distaccata a proposito di... come si chiama? Laura. Laura, già, è vero. Laura. E tu invece come si chiama? Lui si chiama James. James. Ti manca un po'? Sì, è anche normale, non credi? Com'è normale sentirsi contemporaneamente eccitati e depressi? Perché negarsi i fondamentali diritti a causa dei fallimenti della nostra vita sentimentale? Secondo te il sesso è un diritto fondamentale? Altro che se lo è, lo è. Per quello stronzo non mi privo di un bocconcino come te. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Il giorno dopo chiamò Laura in ufficio. Senti Laura, dammi il numero di telefono di casa se non vuoi che ti chiami in ufficio. Non puoi, sì, giusto. Comunque non riattacco finché non accetti di incontrarmi da qualche parte. Mi dispiace, ma non vedo perché devi essere solo tu a dettare condizioni. D'accordo. Anch'io ho diritto a dire. Ho detto d'accordo, che altro vuoi? Ci vediamo stasera, contento. Se non hai da fare, per me va bene. Sono contento di... vederti. Andarono in un bar vicino a dove lavorava lei. Non un pub, proprio un bar, con le fotografie dei giocatori di baseball alle pareti, il menù delle pietanze scritto col gesso sulla lavagnetta e una vistosa assenza di cannelle per l'erogazione della birra alla spina. Non era affollato e si sedettero per conto loro dietro un separé in fondo. Allora come stai? Sei andata a letto con lui. Era per questo che volevi vedermi? Sì, esatto. Cosa vuoi che ti dica? Voglio che tu dica che non l'hai fatto. E voglio che sia la verità. Non te lo posso dire. Cominciò a dire qualcos'altro, ma Rob non la sentiva più. Era già fuori, per strada, sgomitando fra vestiti e impermeabili, arrabbiato, nauseato e diretto a casa per sentire qualche disco più rumoroso e più arrabbiato che lo avrebbe fatto sentire meglio. Quella stessa notte squillò il telefono. Doveva succedere, lo sapevi? È assurdo che non ti fossi preparato all'idea. Io con lui ci vivo, era normale che capitasse prima o poi. Rob, ci sei? Non dici niente. Possiamo vederci ancora se vuoi. Io ti spiegherò meglio, questo te lo devo. Non ho il tuo numero. Vuoi che questa sia la nostra ultima conversazione? So di che cosa sei capace. Ah, lo sai. Rob le telefonò il mattino successivo e due volte nel pomeriggio, e la sera la chiamò dal pub. E dopo il pub andò a fare un giro dalle parti di Ian, giusto per vedere che aspetto aveva a casa sua da fuori. Non poteva fare altro. In sostanza aveva perso di nuovo, proprio come aveva perso con Charlie secoli prima. Ci sono uomini che telefonano e uomini che non telefonano. E Rob avrebbe preferito tanto, tanto, essere uno di questi ultimi. Avrebbe anche smesso di far così se ci fosse riuscito, ma sembrava che in questa faccenda lui non avesse scelta. Era la cosa a cui pensava tutto il tempo. Laura sapeva che Rob era uno che non si agitava sul serio, uno che aveva amici che non vedeva da anni, uno che non parlava più con nessuna donna con cui fosse stato insieme. Ma lei non sapeva quanto gli costava. Non mi fermerò. Ora voglio rivedere le altre donne della top 5. Cercherò Penny, Charlie e Sara, tutte quante. Voglio solo rivederle e chiacchierare un po', come dice Bruce Springsteen nella canzone. Chiamale, chiedi come stanno e se ti hanno perdonato. Già, così sarei contento. E anche loro? Loro sarebbero contente, ma tu più di loro. Troverei la serenità e la calma. Se ti servono per ricominciare, la vita continua, sarebbe un bene. Quasi un sogno. Dai, ora manda un definitivo tanti saluti e baci alla tua top 5 e mettiti in cammino. Grazie, boss. Avrebbe voluto vederle ora. Allison Ashworth, che lo aveva scaricato dopo tre miseri pomeriggi ai giardinetti. Penny, che non si lasciava toccare e che poi tutta un botto era andata a letto con quel bastardo di Chris Thompson. Jackie, attraente solo finché stava insieme a uno dei suoi amici. Sara, con la quale aveva firmato un'alleanza contro tutti gli scaricatori del mondo e che poi lo aveva scaricato. E Charlie, specialmente Charlie, perché era lei che doveva ringraziare per il suo brillante lavoro, per la sua sicurezza sessuale e via dicendo. La top 5 delle cose che mi mancano di Laura. 1. Senso dell'umorismo. È rigida, ma sa essere tenera e indulgente. E ha una delle risate più gioiose e trascinanti che mi sia mai capitato di sentire. Lei ride da tutti i pori. 2. Laura ha carattere. O almeno ce l'aveva prima di quest'incubo. È leale, è sincera. E non se la prende mai con gli altri quando ha la luna storta. Questo è carattere. 3. Mi manca l'odore della sua pelle. E il sapore che ha. I misteri della chimica umana non si discutono. Molti, guidati dai sensi, hanno l'impressione di essere una cosa sola. 4. Mi fa impazzire il modo in cui cammina. Lei non fa mai caso all'immagine di sé che proietta. Non che non le interessi, è che non si lascia influenzare, ecco. E questo le dona grazia. 5. Quello che fa a letto quando non ha sonno. Comincia a gemere e poi strofina i piedi tra loro un certo numero di volte e la cosa mi fa morire. E potrei anche dirvi la top 5 delle cose che mi fanno incavolare, ma sono le classiche follie femminili, quel genere di cose che genera casini come questo. Oh, my land is like a wild goose wanders all around everywhere, trembles and it shakes till every tree's loose. It rolls the meadows and it rolls the meadows. Lo venne a sapere la mattina stessa in cui venne a saperlo lei. Era in negozio e squillò il telefono. Laura, non stai bene? Mio padre. È morto, se n'è andato. Rob non faceva che pensare alla gente che muore, ma si trattava sempre di persone legate a lui. Aveva pensato a come si sarebbe sentito se Laura fosse morta, o a come si sarebbe sentita Laura se fosse morto lui, o a come si sarebbe sentito se fossero morti sua madre o suo padre. Ma non aveva mai pensato alla morte del padre o della madre di Laura, proprio no. E anche se il padre di Laura era stato malato per tutto il tempo della loro relazione, la cosa non l'aveva mai veramente preoccupato. Adesso lui se n'era andato e Rob ovviamente avrebbe voluto... Cosa? Cosa avrebbe voluto? Essere stato più gentile con lui? Era sempre stato perfettamente cortese con lui le rare volte che si erano visti. Secondo la legge non scritta, era suo suocero ed erano molto diversi e lui era malato. E erano tanto in intimità quanto occorreva. Quando torni a casa? Più tardi, appena mi riprendo. Mamma vuole che tu venga al funerale. Chi? Io? Sì, a mio padre piacevi molto. E mamma non gli aveva detto che ci eravamo separati. E tu vuoi che io venga? È indifferente, però non ti aspettare che io ti tenga la mano. Ray, viene. Ma no. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così. Canzoni al mio funerale. Many Rivers to Cross di Jimmy Cliff, Angel di Aretha Franklin. E ho sempre desiderato che ci sia una bellissima donna in lacrime che canti You are the best thing ever happened to me di Gladys Knight. Ma chi mai potrebbe essere? Ecco, più o meno quello che gli era successo durante il funerale. I genitori di Laura vivevano a qualche miglio dalla cittadina più vicina e comunque non avrebbe saputo che direzione prendere per raggiungerla. Così girò l'angolo e poi ne girò un altro e arrivò a una specie di strada principale. Vide una fermata del bus, ma non era il genere di fermata che può rassicurare. Non c'era nessuno in attesa né altri segnali di vita. Aspettò per un po'. Pioveva e si sentiva gelare, ma quando finalmente capì che si trattava di una di quelle fermate di bus che richiedono un investimento di qualche giorno, anziché di qualche minuto, vide in fondo alla strada una Volkswagen verde che gli era familiare. Era Laura e lo stava cercando. Posso fare qualcosa per te? Sì, monta. Dove andiamo? Decido io. Cammina. D'accordo. Email audiogrammi @radio24.it. Rob salì in macchina e dopo qualche chilometro con la pioggia che non smetteva di venir giù, Laura si fermò in un parco sotto un grosso salice. Lui ci portava sempre qui, da bambini. Con la mano indicò oltre il parabrezza i campi, la fermata del bus, un uomo che stava portando a passeggio il cane. Guardarono l'uomo che cercava di accendersi una sigaretta continuando a tenere in mano il guinzaglio del cane, il giornale e un ombrello. Era impossibile, ma lui non desisteva. Senti Rob, vuoi fare l'amore con me? Ho bisogno di provare qualcosa di diverso ora. Se non ti va, torno a casa e metto una mano sul fuoco. Se no, mi spegni una sigaretta sul braccio. No, non me ne sono rimaste molte, me le vorrei conservare. Va bene. Facciamo l'amore, allora. D'accordo, certo. Ho fatto bene a mettermi la gomma. Resta lì. Sì. Questo non era da Laura. Lei era avvocato di mestiere e di natura, ma adesso si comportava come se fosse stata un personaggio di un film. Rob era bagnato fradicio, tanto per cominciare. E benché sapesse che quella condizione aveva un certo numero di connotazioni sessuali, sarebbe stato difficile anche per il più accanito dei pervertiti eccitarsi col suo genere di bagnato, che comprendeva freddo, pelle irritata e cattivi odori. Rob non aveva mai avuto l'ambizione di farlo in macchina, e forse il funerale aveva avuto un effetto curioso sulla figlia del defunto, ma per lui, francamente, era stato piuttosto deprimente. E non era tanto sicuro che gli andasse di fare del sesso con Laura sapendo che viveva con un altro. Aveva smesso di piovere, ma dagli alberi cadevano ancora delle grosse gocce d'acqua sul tetto dell'auto. E il vento soffiava indiavolato fra i rami, così ogni tanto gli volavano addosso anche delle foglie. Laura si aggiustò i vestiti e gli si sedette sopra. Sorrise, lo baciò Seguirono alcuni preliminari e compagnia bella. Tornarono a casa e Laura fermò la macchina davanti a casa dei suoi genitori. Ehi, fa compagnia alla mamma. Oh, sono troppo stanca. Stanca di non stare insieme a te. Cioè, se tu avessi più energia, non staresti con me. Ma siccome sei psicologicamente a terra, fai marcia indietro. È così? Sì. Sì, ma Ian? Ian è un disastro. Insomma, l'hai lasciato? Beh, mi hai fatto capire che mi volevi a tutti i costi. Senti, ne parliamo un'altra volta, se vuoi, perché adesso io desidero tornare a casa con te. Va bene. Allora, è deciso. E fu così che la loro relazione riprese il suo corso. Ci eravamo rimessi insieme ed era una cosa grandiosa. Lei riportò la sua roba a casa tutta in una volta. Quando hai deciso di rimetterti con me, con esattezza? Non te lo dico. Tanto te lo faccio sputare prima o poi. Con le cattive. Cenavamo fuori tutte le sere. Sei organizzato, eh? Che altro manca? Oppure restavamo a casa a fare l'amore. E parlavamo del futuro. Con argomenti seri. Vitali. Voi direte che cos'altro avrei potuto desiderare? Tutto vero, ma con la proverbiale eccezione di quella... Da un certo punto di vista sarebbe stato più bello se Rob non si fosse così legato a Laura. Sarebbe stato più bello se avesse potuto sentire che c'erano ancora quelle dolci possibilità e quella sognante aspettativa che provava a 15 anni, o a 20, o addirittura a 25, quando sentiva che da un momento all'altro la persona più perfetta del mondo poteva capitare nel suo negozio. Tu sei Bob. Rob. È vero, scusa, Rob. Tu eri il DJ e io venivo sempre al Double Door per vederti all'opera, eri incredibile. Oh, davvero? Grazie. Io mi chiamo Caroline. Piacere. Che cosa fai? Scrivo su Reader, curo la rubrica musicale. Sei Caroline Fortis? Leggo la tua rubrica, sei competente. Grazie. Dico sul serio, scrivi bene. Rob, telefono. Prendi il messaggio. È la tua ragazza, ti vuole. Scusami. Caroline venne a intervistarlo per il suo giornale e fu così che la conobbe e si innamorò subito di lei, ma di brutto. Ma avrebbe potuto innamorarsi di chiunque. La mattina dopo Rob telefonò a Caroline. Non la trovò e lasciò un messaggio. Lei non lo richiamò e così lo fece lui. Lasciò un altro messaggio. Stava diventando leggermente imbarazzante. Il giorno prima del presunto appuntamento con Caroline, Rob manifestò tutti i sintomi classici della cotta. Spasmi nervosi allo stomaco, lunghe fantasticherie ad occhi aperti, assoluta incapacità di ricordarsi com'era fatta. Rob preparò una compilation per Caroline, scese le canzoni giuste, quelle che piacevano a lui ma anche a lei. In quel momento Laura entrò con una busta della spesa. Per chi è la compilation? Per una che mi ha intervistato per il Reader. Insomma, che cosa devo fare? Devo continuare a svolazzare di fiore in fiore per tutta la vita finché ne vedo sbocciare uno? Devo mandare tutto a monte ogni volta che conosco una ragazza nuova? Dall'età di 14 anni ho lasciato che fossero i testicoli a decidere e francamente sono giunto alla conclusione che i miei testicoli non ci capiscono un cazzo. Qualche giorno dopo, Rob diede appuntamento a Laura al solito pub. Lei arrivò in ritardo di un quarto d'ora, che significa che lui era stato nel pub a guardare lo stesso articolo per ben 45 minuti. Era spiacente del ritardo, anche se tutto considerato non è che proprio si sprofondasse in scuse. Ma Rob non disse niente al riguardo. Ciao. Ciao. Pranzo feriale in un ristorante è una novità assoluta. Allora hai intenzione di parlarmi oppure tiro fuori il giornale? No, ora ti parlo. Bene, e di che mi vuoi parlare? Ecco, io ti voglio domandare una cosa. Se vuoi sposarti con me. Dico sul serio. Sì, lo so. Vabbè, grazie, grazie mille. Scusa, ma solo due giorni fa stavi facendo una cassetta a quella ragazza del Reader. Già. Perdonami se non ti giudico il massimo dell'affidabilità. Mi sposeresti se lo fossi? Te Perché me lo chiedi adesso? Non lo so. Ma sono stanco di pensarci continuamente. A che cosa? A questa cosa. Amore, sistemazione, famiglia, insomma. Voglio pensare a qualcos'altro. Ho cambiato parere. È la cosa più romantica che abbia mai sentito. Ci sto, lo voglio. Non prendermi in giro, cerco di spiegarti, d'accordo? Quella ragazza, o altre donne, sia passate che future, ho capito che sono solo fantasie. È chiaro, e risultano allettanti perché non danno nessun problema. E se ne danno, sono problemi leggeri. Tipo, ci siamo fatti lo stesso regalo di Natale, o lei vuole vedere un film che io ho già visto, e noi due invece, noi abbiamo veri problemi. E tu non puoi vedere i film che voglio vedere io. E la lingerie che tu... Ma anch'io della lingerie. Sì, lo so, la tua biancheria è bella, ma hai anche delle mutandine di cotone che avrai lavato mille volte, stese ad asciugare nella doccia. E anche le altre donne ce le mettono, ma dato che non le vedo, immagino che non lo facciano, chiaro? E io sono stanco di immaginarmi le cose, perché le fantasie per definizione sono irreali. Quasi mai portano vere sorprese e quasi mai... Soddisfano. Soddisfano. Giusto. E mi hanno stancato. Di quasi tutto mi sono stancato. Ma mai credo che mi stancherò di te. Perciò... Ora credo di capire. Ma ti aspettavi che ti dicesse di sì? Non lo so. Non ci ho neanche pensato. Chiedertelo era l'importante. Me l'hai chiesto. Grazie. Quel weekend fece il DJ in un nuovo locale. Tutto andava a gonfie vele. Una volta ci voleva un po' di tempo per scaldare la gente, ma quella sera erano tutti in tiro da subito. E Rob si sentiva davvero in forma. Non aveva perso un briciolo del suo vecchio talento. Una sequenza, gli OJs, Errol Melvin e i Blue Notes, Madonna, The Ghetto, gli Specials, costrinse la gente a chiedere pietà. Il resto della serata fu un po' come il finale di un film. Rob mise su Go to Get You Off My Mind di Solomon Burke e tutti provarono a ballarla, solo per senso del dovere, anche se nemmeno i migliori ballerini sarebbero stati capaci di tirarne fuori qualcosa. Quando Laura sentì le prime note della canzone, fece una piroetta, lanciò a Rob un sorrisone e alzò il pollice per dire «Evviva!». Dovete sapere che la creazione di una grande compilation, così come una separazione, richiede più fatica di quanto sembri. Devi iniziare alla grande, devi catturare l'attenzione. Allo stesso livello metti il secondo brano, poi devi risparmiare cartucce inserendo pezzi di minore intensità. E sono tante le regole. Comunque, ho iniziato a pensare a una cassetta per Laura. Conosco i suoi gusti e cercherò di farla felice. E per la prima volta so di poterci riuscire. I believe when I fall in love with you, it will be forever. I believe when I fall in love this time, it will be forever. Testo tratto da Alta Fedeltà di Nick Hornby, Edizioni Guanda. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.